Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Si chiude oggi a Milano la settimana che trasforma la città nella capitale mondiale del design. È la Milano Design Week, salone del mobile in fiera e fuori salone in città anticipano tutto quello che vedremo nei prossimi mesi in termini di creatività, innovazione e comunicazione. A caccia come sempre delle voci, delle storie, dei segnali di futuro da intercettare, abbiamo bevuto un caffè con uno dei fondatori di Airbnb, abbiamo riflettuto su designers, makers, artigiani e sharing economy, abbiamo parlato con i giovani talenti del Salone Satellite, abbiamo sperimentato lo showroom diffuso di Made.com e siamo saliti sul giardino mobile di eBay. Vi raccontiamo tutto in questa puntata speciale monotematica tutta dedicata al design. Molte volte io in sintesi sul design dico che il design è l'arte di inventare un'invenzione e poi di tradurla in forma. Quello che mi piace di più, che proprio mi dà un grande piacere, è fare un oggetto che più semplice di così non si possa fare. Così due grandi maestri del design, Achille Castiglioni e Bruno Munari, parole illuminanti su temi chiave per il design quali innovazione, forma, semplicità. Gli oggetti devono fare compagnia è un'altra delle citazioni cult di Castiglioni, la usiamo per introdurre il concetto di ospitalità e accoglienza che Airbnb, il portale leader nel mondo per la condivisione e la prenotazione di alloggi di ogni genere, dal divano o dalla singola stanza in un appartamento per una notte a case, ville, addirittura castelli. Concetto di accoglienza che Airbnb, dicevamo, ha trasformato in un'installazione per il Salone del Mobile. Insieme al think tank del design Fabrica, la realtà simbolo della sharing economy, ha scelto una residenza privata, Palazzo Crespi, a Milano, per raccontare i riti di benvenuto, dal tea time inglese all'accensione delle candele in India. L'occasione per noi per parlare di sharing economy con la realtà di riferimento. Un po' di numeri. Airbnb, pensate, è ormai presente con 1 milione di alloggi in più di 34.000 città e 190 paesi nel mondo. Dal 2008 ha ospitato più di 30 milioni di persone. L'Italia, questo in pochi lo sanno, è al terzo posto per numero di alloggi disponibili. Sono più di 100.000, preceduta sola da Stati Uniti e Francia. Nel nostro paese hanno soggiornato con Airbnb più di 1 milione di viaggiatori. Airbnb è valutata, ultimo dato disponibile, 10 miliardi di dollari, più della storica catena alberghiera Intercontinental, e non a caso si dice che rappresenterà per il turismo dei prossimi anni una rivoluzione analoga a quella degli Holiday Inn negli anni 50 e 60. Sono i numeri di un nuovo modo di viaggiare che è ormai un fenomeno di costume. Ce lo siamo fatti raccontare in occasione dell'incontro con uno dei fondatori, Joe Gebbia. Airbnb è una società design driven che ha il design nel suo DNA. Io e l'altro cofondatore, Brian, ci siamo conosciuti in una scuola di design. Tutto quello che immaginiamo per Airbnb ha un substrato di design. Così ci siamo chiesti: come possiamo creare cose che possano comunicare un'esperienza di accoglienza alle persone, prodotti o abitudini legati al momento in cui apri la porta di casa per ricevere? Perciò siamo qui a Milano per esplorare il concetto di accoglienza e di ospitalità. Quanto è importante l'Italia per Airbnb in questo momento? È estremamente importante per noi l'Italia, è il terzo mercato più grande al mondo. Gli italiani adorano viaggiare sia nel loro paese che all'estero e il mondo intero adora venire in Italia. Milano, Roma, Firenze, Venezia, l'Italia è una meta globale e noi siamo felici che il mondo possa avere un'esperienza in Italia con gli occhi di chi ci vive attraverso le case degli host a Firenze, a Venezia e qui a Milano. È un fenomeno inaspettato, stupisce tutta questa fiducia negli sconosciuti da ospitare nella propria casa. In effetti è un fenomeno globale, sta tornando molta fiducia nel mondo. Ero a cena con un host proprio ieri sera e mi ha detto che con il suo primo ospite ha nascosto un sacco di cose in casa. E ora che ha qualche centinaia di ospiti, mette loro le chiavi di casa in mano senza pensarci due volte, perché attraverso Airbnb ha acquisito molta più fiducia nel mondo di quanto non ne avesse prima. Pensi che Airbnb possa essere un'opportunità per l'economia in Italia così come in altri paesi? Certo, assolutamente. Gli utenti di Airbnb forniscono ospitalità e rafforzano l'economia. È molto facile per gli italiani che hanno una camera extra o un appartamento ottenere un reddito extra, una nuova risorsa. È facile e divertente accogliere il mondo intero nel proprio salotto. Gente che arriva dal Giappone, dal Canada, dall'Argentina, per poi andare a visitarli a propria volta. È veramente qualcosa di speciale invitare il mondo intero attraverso Airbnb. Laws, rules. Una maggiore regolamentazione della sharing economy nel futuro, soprattutto dal punto di vista delle tasse e del fisco, potrà rappresentare un problema? Niente affatto, è un'opportunità. Negli Stati Uniti e in altri paesi, il fenomenale progresso delle regole si sta adattando alle tecnologie del XXI secolo. E in città come San Francisco, Portland e Nashville, Tennessee, abbiamo iniziato a gestire per gli host la questione delle tasse. E in altri come Amsterdam, Parigi e Amburgo, abbiamo visto approvare molte leggi che agevoleranno molte persone ad affittare la casa con Airbnb. Ma cosa succede quando applichiamo la filosofia, le dinamiche, i modelli di business della sharing economy al mondo del design? È quello che si è chiesta l'agenzia media PhD nell'evento in cui si è parlato di condivisione e artigianato, makers, fab lab, open innovation e fatto a mano. Che cosa unisce tutte queste cose? Ce lo siamo fatti spiegare dai protagonisti, a partire da Andrea Cattabriga, fondatore di SlowD, che è una piattaforma per produrre, distribuire e acquistare design a chilometro zero. Siamo una realtà emiliana, siamo nati a Modena nel 2013 e ci stiamo occupando di riportare la produzione sui territori, creando con questa piattaforma web un punto d'incontro tra designer, progettisti e piccole aziende artigiane per cambiare il modello con cui facciamo le cose, riportare economicamente il modello sui territori. Il vostro è un modello che incide anche sulla produzione, perché si arriva ad una produzione on demand. Questo che cosa comporta per la filiera del design, per il sistema design? Noi siamo partiti da un tema di democratizzazione di accesso al mercato, quindi rimuovere quelle barriere di scarsità di idee che arrivano poi al consumatore e dire beh, perché ogni prodotto non potrebbe avere nella sua dignità di essere fabbricato almeno una volta per quella persona al mondo che lo vuole, visto che crearli i prodotti può costare molto poco. Bene, partendo da questo, ovviamente ci siamo dovuti trovare ad affrontare il tema dell'economia di scala di un prodotto, ma anche della riproduzione di un sistema che replicasse la sicurezza e il controllo di gestione della qualità che c'è nell'industria. Per cambiare un sistema devi riuscire a fare qualcosa che funziona almeno quanto quello passato. Il nostro è un modello di business che si basa sulla condivisione di quel valore che è il prodotto come progetto, e quindi un designer che sceglie di attivare un prodotto su una piattaforma produttiva fatta appunto da tante aziende, non una sola, in cui noi ci occupiamo di trasferire la qualità e i processi, ma nella quale c'è dover sbloccare delle dinamiche che in realtà sono semplicemente spesso legate a una poca conoscenza di modelli come quello open, che possono essere altrettanto remunerativi, oltre che più virtuosi, oltre che più potenti, e mi viene da dire semplicemente più belli anche a volte di quelli che valorizzano il segreto e la proprietà intellettuale. Grandi protagonisti dello scenario del design in questo momento, i Fab Lab, le officine, chiamiamole così, che offrono servizi personalizzati di fabbricazione digitale. Nel nostro paese si stanno moltiplicando. Massimo Temporelli è il fondatore di The Fab Lab Milano. Un Fab Lab è una struttura ancora amorfa, sta prendendo forma un po' in Italia, negli Stati Uniti è nato nel 2001, in Italia il primo è del 2011 a Torino, quindi siamo giovanissimi come tentativo di sopravvivenza, però lentamente stanno uscendo dei modelli di business, così possiamo chiamarli. Ognuno dei Fab Lab nati in Italia, ormai ne nascono veramente uno alla settimana, ha un po' una sua identità. Il nostro Fab Lab in particolare ha un po' l'ambizione di diventare un luogo quasi di mercato, cioè vorremmo avvicinare molto il progettista, il designer, quella via di mezzo tra il designer, l'autoproduttore e il maker, avvicinarlo molto al mercato, cioè aiutarlo a vendere il suo prodotto, vendere le proprie idee. Forse è giunto il tempo di cominciare a pensare a condividere, come fanno in tanti, soprattutto all'estero, a condividere le idee che diventano prodotto. Con Ilaria Contrastini, Country Manager Italia di Dawanda, il portale dove artigiani e designer possono mettere in vendita le loro creazioni, in pratica il concorrente europeo di Etsy, abbiamo parlato di homemade e stampanti 3D. In Italia abbiamo dei numeri molto interessanti, abbiamo superato i 2 milioni di pagine viste, abbiamo tantissimi nuovi designer e la crescita anno su anno è del 150%. Che tipo di prodotti si trovano su Dawanda? Su Dawanda si trova di tutto, dall'abbigliamento alla cancelleria, ma devo dirvi che la categoria più forte in questo momento sono i gioielli, bijou di tutti i tipi. E i designer, le designer chi sono? Avete un profilo tipo? Il profilo tipo devo dire che mi ha stupito perché in Italia non c'è. Tendenzialmente il nostro target sono creativi donna, ma in Italia abbiamo un buon equilibrio tra uomo e donna. Sono più o meno tra i 30 e i 35 anni e persone che lo fanno di mestiere. Quindi una conferma per il homemade come tendenza fortissima di mercato? Assolutamente, l'artigianato è per noi la parola chiave. Nel nostro paese è fondamentale riscoprirlo ed è anche uno opportunità di lavoro in questi tempi, è importante riscoprirlo. Di sharing economy stiamo parlando da tempo, l'ultima volta abbiamo raccontato il social eating e il turismo collaborativo, oggi di sharing design. Appunto, che cosa rivela questo fermento? Perché iniziano ad occuparsene anche le realtà fuori dalla nicchia, per così dire? Lo abbiamo chiesto a Vittorio Bucci, Managing Director di PhD Media Italia, l'agenzia che insieme a collaboriamo.org ha firmato la prima mappatura dei servizi collaborativi nel nostro paese. Per noi come agenzia media è fondamentale avvicinare questo mondo per due motivi. Innanzitutto è uno dei settori di business più effervescenti e quindi ci interessa essere al centro di questa rivoluzione o rievoluzione dei modelli di business per capire come impatterà sull'evoluzione stessa delle aziende che oggi rappresentano i nostri clienti e i nostri partner. L'altra ragione è legata invece al modo in cui la sharing economy rappresenta un'evoluzione del modello di consumo, del modello con cui il consumatore si confronta con le aziende, vive all'interno di una community, basa le sue scelte su monete che sono differenti da quelle che oggi siamo abituati a considerare. E di conseguenza noi come centro media, come agenzia di marketing, dobbiamo tenere assolutamente traccia di ciò che sta avvenendo per poter svolgere al meglio il nostro lavoro e quindi creare delle strategie sempre più improntate sulla relazione efficace tra azienda e consumatore finale. Dalla vostra mappatura emerge un'effervescenza notevole anche per quanto riguarda lo scenario italiano. Emerge un settore molto frizzante che si contraddistingue per una certa prevalenza di aziende al nord, di start-up al nord, per una scarsa presenza di venture capitalist o comunque istituti deputati alla forma classica di finanziamento delle start-up. Emerge una certa originalità che non si sostanzia quindi soltanto nella replica del modello americano o comunque oltre i nostri confini, ma anche nella ricerca di modelli di business che siano differenti e contestualizzati per il nostro territorio. Il passo successivo è quello di conciliare le esigenze locali, il tessuto italiano che è fatto di microeconomie e che ha una certa valenza chiaramente anche nella valorizzazione del prodotto manifatturiero, con la necessità di scalare in termini globali o per raggiungere non solo una nicchia di consumatori ma allargare la penetrazione del mercato. Essere e avere. Come ogni anno nei padiglioni della fiera trova spazio anche il Salone Satellite, la manifestazione dedicata ai giovani designer, giunta quest'anno alla sua 18ª edizione, premiata lo scorso giugno con il compasso d'oro alla carriera. 700 i partecipanti da tutto il mondo, 18 le scuole internazionali provenienti da 11 paesi. Nicola Scevola ha raccolto per noi le voci dei protagonisti, a partire da quella del vincitore, un designer cinese creatore di lampade realizzate con la stampante 3D. My name is Stephen Ma. I'm the founder of Exuberance. Mi chiamo Stephen Ma e sono il fondatore di Exuberance. Siamo uno studio di Shanghai che produce design per stampanti tridimensionali. Sono nato a Hong Kong, cresciuto a Toronto, ho studiato in America e lavorato in Europa. Il nostro lavoro è molto internazionale. Alcuni prodotti possono sembrare europei, altri cinesi. Esteticamente sono tutti molto sfaccettati. So it's very multi kind of aesthetics. Il studio si chiama Exuberant, facciamo tante cose e vogliamo farle con un'esuberanza. È un collettivo molto internazionale di designer. Lavoriamo metallo, nylon, plastica, ceramica, legno e anche cera. So we have a lot of like 3D printing designers that actually working on a lot of products. Credo che le stampanti 3D offrano un grandissimo potenziale. Si possono progettare scarpe e mobili con dettagli incredibili. In pratica le stampanti 3D possono essere utili a qualsiasi tipo di industria del design. Can actually cross field and cross design with any kind of like design industry. Sono felice di aver vinto il premio del Salone Satellite. Il mio scopo era dimostrare quello che le stampanti 3D possono fare per il mondo dei consumatori e credo che questo premio serva proprio a questo. Just to show people what's, you know, 3D printing can be done. Siamo qui con Anastasia Koshiva, giovane designer siberiana, vincitrice del Best Design Award di Mosca, per una poltrona con la seduta fatta di corteccia di betulla usata come fosse cuoio. Oggi mostro la mia collezione fatta di corteccia di betulla, un materiale usato tradizionalmente in Siberia. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con artigiani siberiani. Il primo pezzo, Siberiak, che in russo significa colui che viene dalla Siberia, è una poltrona. Ho usato grandi pezzi di corteccia che sono rari ma dimostrano le potenzialità di questo materiale e credo che questo pezzo renda bene l'idea. Per me questo è il miglior materiale del mondo, è davvero affascinante, ha caratteristiche simili a quelle del cuoio. È morbido, resistente, durevole, ma è anche impermeabile e ha proprietà antibatteriche. Può essere utilizzato in molti campi, ha un grandissimo potenziale che al momento non è sfruttato, con il rischio che si perda la capacità di usarlo. Io vorrei salvare questa tradizione e per questo ho cominciato a riutilizzarlo. Un tempo veniva adoperato per produrre scarpe, indumenti, borse, mobili, barche, case e anche medicinali, praticamente per qualsiasi cosa. Mentre ora ci fanno solo scatole da souvenir e credo che sia un vero peccato che un materiale così versatile sia confinato ad un uso così ristretto. Such a small one. Io sono Vittorio Venezia, vengo da Palermo, sono un designer. Ho realizzato questa collezione dopo che sono tornato nella mia città 2 anni fa con due artigiani di un'antica via molto conosciuta che si chiama Via Calderai. Con l'artigiano più anziano, Nino Cimin, un maestro della sala da durastagno, abbiamo realizzato queste 12 lampade. Ogni lampada è l'espressione di una capacità tecnica dell'artigiano di saper saldare, calandrare, forare la lamiera e il metallo. E quindi sono i beccucci e le oriere, oppure ci sono i tubi per realizzare i cannoli siciliani, quindi per friggere la pasta del cannolo. Con questo ragazzo molto giovane, che ha circa 25 anni, abbiamo lavorato sull'idea di nascondere la saldatura e quindi combinando la sua capacità manuale con il taglio a controllo numerico sono usciti degli oggetti sorprendenti, perché non si riesce esattamente a capire di cosa sono fatti, come sono stati realizzati. Sono sedie, tavolini, ci sono sgabelli, portafiori, ma in realtà raccontano semplicemente il potenziale di questo modo diverso di intendere un assemblaggio, una saldatura. Sono Alessandra Meacci, sono un architetto e da qualche anno mi occupo anche di design, presentati la prima volta 2 anni fa qua al Satellite, adesso sono tornata quest'anno con una collezione, Dharma Collection, e la cui idea è quella di partire da un modulo organico di base, la cella dell'alveare, coniugarla in diversi modi modi e in diverse tipologie di elementi di arredo, quindi in una libreria, in delle fioriere, la cui idea è quella di creare un giardino verticale utilizzando diverse essenze che crescono dal basso e dall'alto, pensili per la parete e un sistema in cartone e feltro che utilizza sempre lo stesso modulo base per creare dei separè nelle postazioni di lavoro degli open space degli uffici, quindi per migliorare anche l'acustica dello spazio. Sia la forma che i materiali utilizzati, il cartone e il feltro, sono fonoassorbenti e quindi aiutano a migliorare il comfort acustico. L'idea che mi interessava era di coniugare sia la standardizzazione per facilitare la produzione, quindi utilizzare lo stesso modulo di base, però creando delle aggregazioni di forme diverse, in modo tale che in una produzione a più vasta scala si possa anche pensare che la libreria, ad esempio, venga composta con dei moduli da chi l'acquista e quindi possa mettere più moduli, creare delle forme diverse e con dei sistemi di aggancio particolari. My name is Peter Croft and we are a team of three. Mi chiamo Peter Croft e sono parte di un team di 3 persone, 2 designer e 1 ingegnere. La nostra azienda si chiama Out for Space. Abbiamo sviluppato una tecnologia per iniettare fluidi a rattan, un legno di palma tropicale. Questo metodo consente di ottenere una colorazione particolare e di dare al legno diverse caratteristiche, rendendolo più resistente al tempo e agli agenti atmosferici. In natura, il rattan è un legno già molto flessibile. Basta un po' di vapore per piegarlo. Poi, quando si asciuga, si irrigidisce e mantiene le curvature. Ma con la nostra tecnologia diventa più resistente, cosa che permette di usarlo in molti più settori. Noi miriamo a mantenere le caratteristiche naturali rattan, non come il polirattan che è addizionato con plastica. Per questo, iniettiamo solo fluidi naturali, in modo che il legno possa essere poi riciclato senza problemi. Il rattan che utilizziamo ha una bella storia. Cresce nelle foreste tropicali avvinghiato ad altri alberi. Arriva ad essere lungo fino a 200 metri e ha delle specie di spine con cui si arrampica. Senza gli altri alberi non potrebbe crescere. Questo significa che per coltivarlo si deve per forza conservare la foresta tropicale. Anche il design, come ha già fatto la moda, punta sull'e-commerce. Le idee più innovative arrivano da chi ne ha fatto il proprio modello di business, come Made.com, il portale che vende arredi di design esclusivamente online e che in occasione del salone ha lanciato anche in Italia Unboxed, una piattaforma social che permette agli utenti di condividere fotografie e feedback sui mobili acquistati, addirittura di concordare una visita per toccare con mano i mobili a casa di chi li ha già comprati. Una sorta di showroom diffuso nelle case dei propri consumatori che diventano veri e propri brand ambassador. Il country manager Italia Lorenzo Calcagne. Abbiamo sviluppato questa idea internamente, siamo stati il primo retailer a fare una cosa simile. I nostri clienti fanno una foto al prodotto che hanno in casa, lo taggano, fanno l'upload di questa foto in questo social network che si chiama appunto Unbox, che permette a chi non ha comprato di vedere un prodotto che è contestualizzato. L'e-commerce spesso porta prodotti che sono un po' nature morte, per cui che vivono in un ambiente su una pagina bianca, non vengono poi contestualizzati, non sono vivi. Unbox permette ai nostri clienti sia di ispirare, sia di lasciarsi ispirare su come arredare casa loro. Per cui poi è un social network che va a prendere un po' quello che è l'interesse di social network basati sulle immagini, Pinterest e Instagram, e la voglia di condividere la propria vita ormai sul web. E addirittura lasciate la possibilità poi ai proprietari di casa di aprire la propria casa, mettersi in contatto con il probabile acquirente per far toccare i prodotti stessi. Esatto, tra le prime domande ad esempio che abbiamo avuto sul social network era una cliente che chiedeva: ah, bella questa poltrona, ho visto che l'avete messa sugli esterni, come fate? Ma non si rovina? L'altro cliente poi ti risponde e tu hai un vero e proprio brand ambassador che ti dice come usare quel prodotto e ti convince poi a comprarlo, ovvero diventa uno showroom virtuale per i nostri potenziali clienti in cui scoprire come usare i nostri prodotti e come ambientarli a casa loro. Siamo riusciti a trovare con Unboxed in una maniera innovativa un contatto tra l'offline e l'online. Con Unboxed riusciamo a rendere il prodotto ancora appunto un po' più vivo. Voi siete un osservatorio significativo per quanto riguarda il design e l'e-commerce. Siete arrivati in Italia dopo altri paesi, non siete nati in Italia. Qual è l'atteggiamento in questo momento del consumatore italiano? È un consumatore che inizia a fare i primi passi nell'acquisto di oggetti online che non siano più la moda. La moda è quella che ha sicuramente aiutato a evangelizzare il mercato e a introdurre l'acquisto online di prodotti che la gente non avrebbe mai pensato di comprare online. All'inizio si compravano DVD e libri principalmente da Amazon. Poi la moda ha portato prodotti che uno vive in maniera molto più personale e ha aiutato adesso sicuramente il cliente a comprare prodotti che sono ancora più personali perché ce li si mette in casa, per cui divani. Il cliente italiano è più o meno un 5 anni indietro, diciamo, rispetto al cliente inglese, e adesso stiamo vedendo che sta iniziando sempre più a comprare prodotti sempre più grandi, per cui se all'inizio compravano soprattutto magari prodotti più piccolini, adesso si fida di più, dopo un anno e mezzo che siamo sul mercato, a comprare divani, letti, e è un cliente che ha iniziato a capire qual è il vantaggio di comprare online: risparmio di tempo e di denaro sostanzialmente. Don't take this the wrong way. Al concetto di design democratico si rifà anche eBay, che per il salone si è inventato un giardino mobile, un'oasi verde su ruote. Ci ha spiegato il perché Irina Pavlova, che è responsabile comunicazione di eBay Italia. Perché categorie casa, arredamento e bricolage è in grande ascesa su eBay, con un oggetto venduto ogni 7 secondi, e in particolare l'arredamento da esterni e il giardinaggio con un oggetto venduto ogni 35 secondi. Quindi gli italiani hanno riscoperto l'amore per il giardinaggio e abbiamo deciso di raccontarlo attraverso questa simpatica installazione al fuorisalone. Tant'è che abbiamo allestito le tre aree all'interno di questo giardino mobile, ciascuna dedicata al proprio mood e al proprio budget. Design democratico con i marchi riconosciuti come Cartel, come Emo, quindi la possibilità di unire il design con gli oggetti di uso quotidiano. Il design del futuro guarda anche all'high tech, ma fatto a mano. L'ultima segnalazione da annotare riguarda noi, perché è questo il tema dello speciale design di How to Spend It, il mensile di lusso, lifestyle e moda del Sole 24 Ore, che trovate in edicola. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Trovate tutti i link, le foto, i contributi aggiuntivi sulla nostra pagina Facebook, la puntata da scaricare come sempre sul sito di Radio 24, programmi Essere e Avere, in attesa di risentirci domenica prossima alle 15. Grazie in regia a Paolo Corleoni, un saluto da Maria Luisa Pezzali.